fidanzati, uomini felici, uomini incastrati, ci risiamo, ma è quello che vogliamo. Cerchiamo donne super sexy e poi ci lamentiamo.